2023, Toro, gennaio. Il 2023 inizia per il Toro con un Giove in dodicesima casa che lo porterà a effettuare un lavoro di riflessione ed introspezione. Marte staziona in seconda casa, facendo partire l'anno con il piede giusto per quel che riguarda le economie. Sole, Mercurio e Plutone saranno ancora in buon aspetto dal Capricorno in nona casa, orientando il Toro verso nuovi progetti e viaggi, magari anche solo con la mente e la fantasia, ma lo vedranno proiettato in avanti e ben disposto verso nuovi scenari. Venere e Saturno in decima casa lo aiuteranno nel lavoro e nel farsi rispettare da colleghi e da superiori. Venere, nell'undicesima casa, vi aiuterà a trovare nuovi amici e allacciare nuovi contatti utili per il vostro futuro. Il Sole, nella decima, vi aiuterà nella realizzazione professionale. Mercurio si rivelerà sempre amico, rafforzando le vostre capacità mentali dal benefico trigono del Capricorno fino all'11 febbraio. Dopo sarà un po' più dissonante, richiedendovi un certo sforzo razionale nel comprendere i modi di pensare degli altri, soprattutto in campo lavorativo. Venere, vostra dominatrice, passerà dai pesci all'ariete il 20 febbraio, aiutandovi a prendere coscienza delle vostre insicurezze e soprattutto a superarle. Marzo, in questo mese molto speciale, vedremo il passaggio di Saturno dall'acquario ai pesci, che per il toro rappresenta una fase in cui tagliare rami secchi nelle amicizie, selezionare le persone che si dimostrano utili per il suo percorso evolutivo e lasciare andare quelle che si pongono come degli ostacoli. Anche Plutone passerà in questo mese dal Capricorno all'acquario e per il toro segnerà il bisogno di prendere in mano la sua vita, impostare dei nuovi progetti in ambito professionale e lavorativo senza temere più il rifiuto da parte del mondo, affrontando quindi anche il rischio di un no. Dal 17 di marzo anche Venere nel Toro darà fascino e dolcezza al vostro segno, ricordandovi che un sorriso può essere una chiave che apre moltissime porte. Dal 19 marzo Mercurio entrerà nel vostro dodicesimo campo e vi renderà intuitivi e introspettivi, e i vostri consigli verranno ascoltati con rinnovato interesse dai vostri amici e conoscenti. Dal 24 di marzo Marte in Cancro vi permetterà di prendere contatti con amici lontani e riprendere in mano vecchi progetti lasciati nel cassetto. Aprile, il mese inizia sotto il segno del fascino, con Venere che continua il suo percorso nel segno del Toro, baciando in particolar modo i nati nella terza decade. Marte continua il suo sostegno dalla terza casa, dandovi le energie necessarie per muovervi in svariati ambiti della vostra vita, con autorevolezza e dinamismo. L'intuito e l'autoanalisi saranno sempre di supporto, dato che Sole e Giove vi permetteranno di fare chiarezza dentro e fuori di voi. Dal 4 del mese anche Mercurio entra in Toro, quindi riuscirete a finalmente a dire tutto quello che vi siete tenuti dentro per mesi. Ricordate che dall'11 di questo mese Venere lascia il segno, entrando nel vostro secondo campo, aiutandovi quindi a trovare il vostro equilibrio e stabilizzare le vostre risorse. Attenzione, intorno al 20 aprile, quando si effettuerà una eclissi nel vostro segno. Ne saranno particolarmente toccati i nati nella prima decade. Rimandate decisioni importanti di qualche giorno e affrontate l'eclissi con concentratura e forza interiore. Alla fine del percorso sarete contenti di essere approdati su un nuovo lido, ma nel frattempo sarà mare in tempesta. Maggio. La prima parte del mese sarà ancora un po' movimentata per la scia lasciata dall'eclissi, ma tra la luna nuova successiva e l'entrata di Giove nel segno del Toro, quindi tra il 17 e il 19 di maggio, potrete respirare una ventata di serenità e chiarezza interiore. La seconda lunazione nel Toro si farà in prossimità delle Pleiadi, quindi sarete sostenuti nel portare a termine progetti importanti e le montagne che si frappongono tra voi e i vostri obiettivi si sgretoleranno davanti ai vostri occhi, occhi a cui dovrete porre comunque particolare attenzione, perché Alcione è una delle stelle delle Pleiadi e presiede proprio la vista. Quindi, se avete affaticato i vostri occhi, prendetene cura, in questo periodo sarà benefico e costruttivo. Giugno, Giove si sarà stabilizzato nel segno del Toro, portando i suoi strali positivi. Mi raccomando, vivete il qui ed ora e cogliete i doni che vi porterà Giove, perché il prossimo passaggio sarà fra 12 anni. Fino al 4 di giugno, Venere sarà favorevole dal Cancro, poi si sposta il Leone dal quarto campo, quindi il Toro dovrà iniziare a fare i conti con il suo modo di fare e non dare troppo per scontato l'affetto dei suoi cari. Sarà inoltre necessario un maggiore impegno nelle faccende della casa e della famiglia. Attenzione al 4 giugno, giorno in cui Mercurio si congiunge con Urano. Oltre ad avere qualche buona intuizione, il toro si confronterà con una certa insofferenza. Attenzione quindi a non reagire con troppa veemenza a qualche eventuale ostacolo. Urano inizia a stimolare con la sua forza inarrestabile la terza decade, che potrà sentire ancora con maggiore forza tale impeto al cambiamento. Aiutate chi vi circonda a comprendere le vostre nuove esigenze, perché non sono abituati a vedervi così reattivi e liberi e potrebbero sentirsi spiazzati. Dall'11 di giugno, Mercurio in Gemelli vi darà sarà di sostegno per le finanze. Luglio, Mercurio nel terzo campo, congiunto al Sole, per qualche giorno vi aiuterà ad aprirvi a nuove amicizie. Si potranno aprire opportunità per piccoli viaggi e proficui spostamenti. Plutone, che già da fine giugno è tornato in Capricorno, vi sostiene dandovi voglia di rimettervi sui libri, acquisire conoscenze e strumenti di crescita, sia dal punto di vista personale che professionale. Dal 10 di luglio, Marte in quinto campo e in trigono dalla Vergine smuoverà le acque della passione, riaccendendo dentro di voi il fuoco che il transito di Venere in Leone aveva un pochino sopito, ma non certo spento del tutto. Da metà giugno vi dovrete occupare della casa, per chi è genitore e anche dei figli e delle loro dinamiche familiari. Per chi è single ci potranno essere delle carte da gestire relative all'abitazione. I nati nella terza decade dovranno riguardare un po' il loro modo d'amare, perché la Venere retrograda in quadratura dal Leone li porterà a dover fare un passaggio di introspezione e autoanalisi. Agosto. La seconda decade sta raccogliendo i frutti di antiche semine. Godete degli aiuti del cielo, cogliendo a man bassa quello che vi arriva in dono. Particolare dinamismo lo vivranno i nati nella terza decade, che oltre alle scosse uraniane vivranno il sostegno di Mercurio e Marte della Vergine, che li faranno sentire molto dinamici e fiduciosi. Dal 26 di agosto Marte entra nel vostro sesto campo. Da oggi si inizia a lavorare e ricordate anche di prendervi un po' cura di voi e del vostro corpo, in particolare per i nati nella prima decade, settembre. Mercurio è in un buon trigono di sostegno, soprattutto per i nuovi incontri e per i rapporti con i figli, ma ne coglierete gli aspetti più positivi, soprattutto nella seconda metà del mese, quando il pianeta riprende il moto diretto, esprimendo il suo influsso ancora in modo più concreto. Sarà un mese di rielaborazione in generale, dato che quasi tutti i pianeti lenti nel nostro cielo saranno in retrogradazione, ma per voi tori, un po' per l'aiuto di Saturno, un po' per l'abbraccio di Giove, unito al dinamismo di Urano, riuscirete comunque a trovare il vostro cammino e una via d'uscita anche dalle situazioni più complesse. Dal 23 anche il Sole inizierà a darvi chiarezza e a farvi comprendere delle situazioni che erano rimaste un pochino offuscate. Ottobre, il 2 Mercurio opposto al vostro Nettuno in undicesima vi potrà far fare pulizie rispetto ad amicizie che non sono più molto costruttive. Dal 4 anche Mercurio in sesta casa vi aiuterà a farvi comprendere dai colleghi e dai superiori e finalmente apprezzati come meritate. Dal 5 anche Venere in quinta casa vi riporta la passione e la seduttività che danno sale alla vita, sostenuta da Marte che dal 12 entrerà nella vostra settima casa, facilitando incontri e nuove conoscenze, ora avvivarsi di passioni che nel corso dei mesi scorsi si potevano essere leggermente offuscate. Attenzione, dal 28 ottobre, data in cui una nuova eclissi di Luna riaccenderà i venti vissuti nel corso dell'eclissi di Sole del 20 maggio, intrecciando un dialogo di natura evolutiva tra eclissi che toccherà con particolare intensità i nati nella prima decade del segno. Novembre. Per i primi 10 giorni del mese, Mercurio, Marte e Sole andranno a braccetto nella vostra settima casa, sostenendo i nuovi incontri e i nuovi progetti. Sempre nei primi 10 giorni, Venere, nella quinta casa, vi potrà dare ulteriore fascino e seduttività, per poi iniziare a stazionare in bilancia nella vostra sesta casa e darvi il necessario sostegno sul lavoro. Potrete, con buone esito, occuparvi di voi e del vostro benessere psicofisico. Giove in questa seconda metà del mese torna a favorire la prima decade che potrà raccogliere degli insperati frutti. Verso fine mese prendete in mano le vostre finanze che Marte, Sole e Mercurio in ottava casa potranno darvi le giuste intuizioni per valorizzare i vostri risparmi o le vostre idee lavorative anche da un punto di vista economico. Dicembre, studi e formazioni saranno sostenute da Mercurio in nono campo e anche il desiderio di un viaggio potrebbe iniziare a entrare nei vostri pensieri. Dal 4 del mese, l'entrata di Venere in Scorpione vi renderà languidi e diplomatici. Utilizzate al meglio le vostre doti per ottimizzare i rapporti con colleghi, amici e familiari. Dal 21 di dicembre, anche il Sole in nona casa vi renderà idealisti e orientati verso il prossimo. Unito alla profonda riflessione di Giove retrogrado, riuscirete a comprendere le vere ragioni delle esperienze vissute nel corso dell'anno e vi sentirete arricchiti interiormente, spostando il focus sulla prosperità che sgorga dal vostro cuore. La serenità e la fiducia sono la vera cornucopia dell'anima e gli eventi di quest'ultimo trimestre vi permetteranno di toccarlo con mano.